Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come sapete, con la legge del Rio dello scorso aprile sono state svuotate le competenze delle province. Per abolirle ci vuole una legge costituzionale e sostituite con degli enti territoriali di area vasta e 10 città metropolitane. Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria più Roma con disciplina speciale. I sindaci di queste 10 città dallo scorso 1 gennaio sono sindaci anche della corrispondente città metropolitana, il cui territorio coincide con quello della provincia di origine. Questa identificazione è uno degli aspetti meno convincenti della riforma, perché le attuali province non riflettono quasi mai una entità territoriale coerente. Tuttavia, i confini delle città metropolitane non sono rigidi e potranno cambiare in futuro, in quanto altri comuni vi potranno aderire. Stasera e domani sera allora cercheremo di capire se non esistano dei criteri scientifici, oltre a quelli politici e burocratici, per guidare un tale sviluppo. E lo faremo a partire da uno studio presentato recentemente dalla Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Padova, che ha appunto cercato di definire i confini di un'ipotetica città metropolitana veneta. Buonasera, Alessandro Bove, dottore di ricerca all'Università di Padova e uno degli autori di questa ricerca. Buonasera. Buonasera Maurizio, buonasera. Intanto, a che esigenze deve rispondere questa città metropolitana? In altri termini, che cosa c'è bisogno di mettere insieme e governare in modo condiviso per avere poi dei benefici? Beh, di sicuro la città metropolitana deve rispondere all'esigenza della gestione del territorio. Di conseguenza si tratta di affrontare tematiche quali la forma insediativa, la struttura. Le politiche insediative, certo. Di sicuro le questioni ambientali, certo, che sono centrali per la sostenibilità, e non da ultimo la questione delle infrastrutture e dei trasporti, perciò dei legami tra le diverse parti di questo territorio, ma non solo a scala locale, anche ad una scala più ampia. Certo, ed è proprio questo il problema, no? Se prendiamo una situazione come quella di Milano, che è molto chiara da questo punto di vista, è evidente che un paese della cintura di Milano non può pensare la sua mobilità indipendentemente dalle decisioni di Milano. C'è proprio bisogno di un governo a un livello un po' più alto. Ecco, da questo punto di vista la scienza urbanistica che strumenti ci offre per identificare appunto i confini poi di questa città metropolitana? Quali sono gli aspetti, intanto per cominciare, quantitativi più importanti? Noi ci siamo rifatti all'interno dello studio come punto di partenza le classificazioni che sono state fatte dall'OCSE. La classificazione dell'OCSE è partita soprattutto nel riconoscimento dei cuori urbani principali, andando a considerare cosa? Una densità per chilometro quadrato di abitanti superiore a 1500 abitanti. Caspita. Che è una cifra considerevole, tra l'altro differenziandola tra Europa e per esempio gli Stati Uniti, perché hanno conformazioni fisiche completamente diverse. Certo. Accanto a questo ovviamente è andata a verificare come attorno a questo cuore urbano si connettano i centri vicini, andando a leggere cosa? Quella che è la popolazione che si sposta verso questo cuore dalle zone periferiche, certo, dagli hinterland, allargando poi l'analisi fino al terzo elemento, che è quello della catchment area, che sarebbe l'area di riferimento della popolazione che si sposta dall'hinterland verso il corpo. Cioè, quanti lavoratori attira sostanzialmente una città dall'esterno? La capacità di offrire lavoro a chi viene dall'hinterland. Ecco, da questo punto di vista le città italiane, come dire, queste 10 città metropolitane si riconoscono in questa specie di identikit? In parte sì, le grandi aree metropolitane, quelle con popolazione al di sopra di 1,5 milioni di abitanti, in Italia sono Milano, sono Roma, c'è Napoli, e dopo ci sono aree metropolitane di dimensioni considerevoli, tra i 500.000 e il 1,5 milioni di abitanti, tra cui si annovera Torino, Palermo, Bologna, Genova, Venezia stessa. Ovviamente la classificazione di OCSE è molto più approfondita, perché, certo, va a verificare anche ambiti di dimensione un po' più piccole. Ecco, quindi diciamo che però insomma il modello londinese, il modello newyorkese è un po' difficile da calare nella realtà italiana, forse con qualche eccezione, due o tre quelle che abbiamo detto. Per le altre 7 città come possiamo ragionare? Noi nella ricerca abbiamo ragionato in termini di costruzione di bipoli, tripoli, ovvero di ambiti territoriali che, facendo capo a dei nodi, dei core metropolitani capaci di attrarre popolazione, fossero a distanza abbastanza ravvicinata gli uni dagli altri, tale da creare un'interazione. E quali forte. Sono? Ci puoi fare qualche esempio di questi bipoli o tripoli? Firenze con Prato, oppure possiamo pensare a Messina con Reggio Calabria. Addirittura lì a cavallo fra due regioni. E poi vabbè, nel caso del Veneto, certo, abbastanza semplice, abbiamo Venezia, abbiamo Padova, abbiamo Treviso e Vicenza. Grazie Alessandro Bove, per ora ci fermiamo qui, domani però continueremo a parlare di come disegnare i confini delle città metropolitane. Buona serata. Buona serata, grazie.